questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Giocatore, da centrocampista fenomeno, per me è uno dei più forti centrocampisti della storia del calcio. Come allenatore nessuno lo sa, neanche capitano Fabio Cantadoni in regia, che è oggi tornato, lo scopriremo vivendo, come canterebbe qualcun altro. Questo ovviamente non è lui, era lui quello di prima che non si sentiva benissimo. Seedorf cantante, Pardo, voto. Cantante mi manca, eh. Ti manca, eh. Poi te ne faccio sentire delle altre, perché era già tutto previsto, ripeto. Non solo lo scopriremo solo vivendo, ma anche era già tutto previsto. Ma l'uomo ha qualità, ha talento, artistico, ha una bella Weltanschauung, ti piace, una bella visione del mondo, sì. Molto aperta, è cittadino del mondo. È stato il primo a vincere tre Champions con tre squadre diverse da calciatore. Ma poi al di là degli umori della curva milanista, che poi sonderemo sempre in musica. Questa ve la dico dopo. 800 24 00 24, intanto potete intervenire. Ma non solo su Cedro che sta arrivando. Mi sembra che atterri verso le 18. Comunque, vabbè, queste sono. Questa è pura cronaca. Non solo sul Seedorf, ovviamente. Potete parlare di quel che volete, siete sempre convocati, come sempre, quel che vi pare. Però anche il dossier dell'Inter, cui mancano 7 rigori. Anche un mercato che, questa è una bella notizia, vede Napoli, Roma e Fiorentina che fanno sul serio. Secondo me, questa è un ottimo segno per quel che resta del nostro campionato. Però Pierluigi Pardo, io pagherei copyright, perché Seedorf cantante, che prima abbiamo sentito, performance del 2006, Ippodromo di San Siro, festa per i 20 anni del Milan di Berlusconi, che dice bravo, bravo Clarence, bravo. Però il copyright è di Enrico Currò, che mi ha ispirato Franco Piantanida, autore di questo programma, che è in redazione. Ha ispirato lui scrivendo oggi questa cronistoria, aprendo il suo servizio di oggi su Repubblica con la cronistoria di Seedorf cantante. Ciao Enrico Currò. Ciao. Dunque, mi aveva colpito molto, me la ricordavo, come siccome abbiamo sempre sentito parlare negli anni di Berlusconi cantante sulle navi eccetera, e quella scena mi ricordo che mi aveva colpito veramente tanto, perché ho pensato subito che Seedorf poteva essere un Berlusconi con molti anni di meno. Allora, cioè, più o meno intonato di Ancelotti, ricordate Ancelotti? Più Ancelotti cantava la società dei Magnaccioni bene, il suo non male, non male. E poi Seedorf nel 2007 dopo la vittoria in Champions, stonatissimo, anche un po' brilla, secondo me. Vabbè, queste sono tue valutazioni, non ho le competenze sufficienti per contestare. Io sono Piantanita, riesce nel miracolo di ripescare Ancelotti che canta Ale Milan, Ale. Adesso vediamo se ci riesce. Si può trovare. Messaggio che arriva Aurora 349-238-6666. La finirete con questa rottura di coglioni di Seedorf? No. Andremo avanti anche su tutti gli altri temi. Poi se chi scrive ci telefona e introduce un altro argomento, siamo tutti contenti. Intanto Enrico Currò, faccio sentire un'altra cosa. Seedorf un predestinato o un precontrattualizzato? Era già tutto previsto, dicevo prima. Allora, addio al giorno del suo addio al Milan, 21 giugno 2012. Sentiamo. Mi piace fare di più e giocare, quindi non so in quel momento sarò in campo, 2 anni è il minimo che io prevedo, quindi sto ancora bene. E poi il percorso dopo carriera sicuramente può essere di fare l'allenatore oppure il dirigente, oppure, ma dico che corre avanti nel tempo è inutile, no? Il fatto che c'è un rapporto che dove le porte sono aperte e che c'è grande stima reciproca, dove dove ci si conosce come persone e professionisti, direi che queste sono delle premesse. Ora, questo era Seedorf nel giugno 2012, ma andiamo più indietro ancora. Currò e Pardo, vi faccio sentire Berlusconi nel 2011. Vai. Su Seedorf. La famiglia Seedorf produce industrialmente calciatori, perché sono 2 i fratelli e un cugino, tra l'altro 2 giocano adesso nel Monza e noi li stiamo guardando, osservando per portarli al Milan, e certamente quando Seedorf sarà allenatore del Milan avrà un occhio di riguardo per la sua famiglia. Noi siamo familisti e clientelari e quindi, come si dice su tutti i giornali, e quindi è chiaro che questa cosa la consentiremo. Anzi, la favoriremo. La consentiremo, anzi, la favoriremo. Insomma, ditemi voi che non era già tutto previsto. 800240024. Aspetto di sentire le opinioni di Pardo e Currò subito dopo il traffico. Alla centro c'è Inzaghi, ma Pirlo era di spalle e non è riuscito a verticalizzare. Lotta Kainz dal fondo e la cross. Inzaghi non ci arriva, attenzione al limite. Seedorf prova a liberare il destro. Seedorf va in percussione, il tiro. Rete, rete, rete. Seedorf 2-0. Convocati. Ale, ale, ale, Milan, ale, forza lotta, vincerai, non ti lasceremo mai. Pier Pardo non è così pessimo. Beh, insomma, coro da stadio, che vuoi, cioè... Anche a cappella, voglio dire, non... Vabbè, me lo ricordavo peggio, in effetti. Te lo ricordavi peggio, Onore a Ancelotti, a prescindere. A prescindere. Prima gli ospiti, Enrico Currò. Era già tutto previsto, dicevamo. Hai sentito Seedorf nel 2012, Berlusconi nel 2011, insomma, era già tutto scritto. Sembrava che avessero parlato ieri, oppure ieri. Alla presentazione, quando ci sarà. Mi ha colpito il fatto dei familiari di Seedorf, a giudicare da come sono andati in questi anni credo che Seedorf non chiamerà nessuno di loro al Milan. Peraltro, se non ricordo male, aveva anche se siamo clientelari, familiaristi, il suo amico Isaias, penso che Pierluigi se lo ricordi, sì. La famosa storia dell'amico che era riuscito anche a far esordire in Coppa Italia, Italia. Insomma, penso che i tempi siano un po' cambiati. Me lo ricordo perfino io, che ho una pessima memoria, Pier. Sì. Vabbè, ma insomma, il feeling c'è sempre stato. E alla fine di tutta questa storia, secondo me, visto che non abbiamo al momento nessuna evidenza né positiva né negativa di Seedorf allenatore, semplicemente perché è un esordiente, io credo che i tifosi del Milan debbano fidarsi dell'istinto di Berlusconi, che è un istinto che nella storia del Milan spesso ha funzionato. Poi adesso si potrà dire che adesso è un altro Berlusconi, un altro Milan, ma quello che vuoi dire, però hai ragione. Quello che volete, c'è anche l'età, insomma, uno magari quando è un po' più giovane ha delle intuizioni migliori di quando ha qualche anno in più, però sa, Berlusconi questo istinto sugli uomini ce l'ha sempre avuto. Capello è stato un capolavoro, insomma, quindi io credo che Seedorf abbia queste caratteristiche. Sacchi è stato un capolavoro. Sacchi è stato un capolavoro. Capello è stato un capolavoro, cioè è uno che gli uomini li sa valutare, ecco, su questo non ho dubbi. E non credo che sia cambiato con l'età. Sinceramente, però, cioè, non sarà rincoglionito tutto un botto. 800240024 per intervenire in questa dotta discussione. Io invece chiedo a Enrico Currò, che conosce perfettamente la mente del Milan da molti anni. Allora, domanda difficile. La squadra stava con Allegri o no? Perché abbiamo sentito i Muntari che si mette a piangere, di Balotelli che fa il broncio come il ragazzino, cui hanno tolto il pallone, insomma, ma la squadra stava con Allegri oppure no, Enrico? Ma sai, una parte della squadra sicuramente sì, una parte della squadra sicuramente no. Maggioranza? La maggioranza sì, la maggioranza sì, perché poi alla fine ha giocato non fosse altro che per ragioni di infortuni la maggioranza dei calciatori, però i calciatori li conoscete meglio di me, stanno dalla parte dell'allenatore quando le cose vanno bene. Come quando no? Non vanno male, diciamo che magari non stanno contro, ma neanche si dannano l'anima per lui. È quello che mi ha colpito da osservatore obbligato, diciamo così, delle partite del Milan quest'anno, è stato proprio il fatto che molto spesso i giocatori dessero la sensazione precisa di non dannarsi l'anima, perché la partita col Sassuolo è, insomma, dice abbastanza tutto. Come può una squadra di Serie A che si chiami Milan o che non si chiami Milan, parliamo di una squadra di Serie A, prendere i 4 gol che ha preso il Milan a Reggio Emilia? Dai, è impossibile. Vuol dire che non te ne frega poi tantissimo. Esatto, ecco. Ed è per questo che io dico, parlo, ho raccontato quei 4 gol per Mediaset. Peraltro Lady Antonini dice: nessun pentimento, il mio tweet su Allegri, Luca è stato male, il mio uno sfogo, le altre donne, le donne degli altri rossoneri non possono dirlo, ma magari sono d'accordo con me, eccetera eccetera. Morale, Pier, a vedere la partita, e tu l'hai vista con il Sassuolo, non sembrava che la squadra stesse proprio con lui. Ha ragione Enrico, beh, stavano con lui pro forma, di fatto non si, se era così non si vedeva. Sì, sì, ma questo vale sempre per lo sport professionistico di alto livello, no? Che, beh, quelli del Bayern no, però l'anno scorso. No, ma voglio dire, tante volte si dice giochi contro l'allenatore, io questa volta non ci credo. Io credo che chiaramente, essendo uno sport di altissimo livello, dove quindi è uno scontro tra eccellenze, se tu hai meno voglia, meno ambizione, meno motivazione, meno passione di chi ti sta di fronte, questa cosa si può sentire. Quindi in questo posso essere d'accordo. Io mi ricorderò sempre dell'autobiografia di Eto'o, che era uno che di storie ne aveva vinte tante, e che anche privatamente, in quell'anno in cui l'abbiamo scritta insieme l'autobiografia, mi diceva che era completamente invasato da Mourinho, che gli faceva fare il terzino. Lui faceva il terzino con Mourinho, aveva già vinto tutto, poteva tranquillamente dire: caro Mu, terzino lo fai fare a tuo fratello. Sì. E invece era innamorato, era parte del progetto, non pensava. Beh, ma non solo lui, anche delle volte delle ipotesi, tutti i giocatori di quell'Inter, tutti i giocatori di quell'Inter avrebbero spaccato la testa contro il muro. Questa cosa qui sicuramente il Milan di quest'anno, già questa cosa qui è rara, secondo me è la grande qualità di Mourinho, sì, è vero, di tutte le altre, che ci sono, d'accordo. Il suo potere di seduzione sui gruppi umani con i quali lavora o con i tifosi è un suo. Sentiamo Enrico. Però Pier, è verissimo, però l'invasamento ha dei tempi fisiologici, cioè oltre i 2 anni secondo me non resiste, la storia lo dimostra anche per Mourinho. Può essere sì. Però con Conte siamo alla terza stagione e mi sembra che lo stile, l'imprint sia lo stesso. Enrico, ti voglio sottoporre un'ultima considerazione più generale. Con l'Inter in stagnazione, oggi leggo di Toir anche sul tuo giornale: serve tempo, 2-3 anni prima bisogna risanare i conti eccetera, intanto l'Inter compila dossier arbitrali, secondo l'amico di Pardo Cesari mancherebbero 7 rigori all'appello. Nel mercato invece, in questi primi 15 giorni di mercato, si legge una Roma, una Fiorentina e un Napoli, che stanno puntando abbastanza forte su questo tavolo verde. Buon segno, mi pare, per quel che resta del campionato. No, io penso che il campionato sia chiuso e sono d'accordo. Andato. Credo che sicuramente siano squadre che hanno in questo momento più società, non squadre che abbiano dalla loro l'entusiasmo. Questo è il criterio che poi muove a volte anche delle scelte di mercato. Però se poi andiamo a vedere dal punto di vista economico gli investimenti veri, reali, mi pare che siano ovunque poca cosa, e bisogna rassegnarsi al fatto che in questo momento o si usa un po' di fantasia o si fanno delle scelte anche coraggiose e nuove, oppure quel famoso gap che separa attualmente il calcio italiano da dagli altri, perché noi adesso parliamo con tutto questo entusiasmo del campionato italiano, però poi guardiamo cosa è successo nelle coppe e insomma ci dobbiamo abbastanza spaventare. Enrico, grazie. Ciao. A voi. Ciao. Ciao Ciurro. Io lo chiamo Ciurr, e lo chiama Pad. Sono piccoli giochetti da gente molto stupida. Andiamo invece. Pad. Ciurr. Pad. Sì. Ti chiamerò anche così. Come vuoi tu. Come vuoi andiamo, tu. Andiamo al numero verde. Vai. Gigi da Padova, buongiorno. 800240024. Buongiorno, buongiorno. Voci che mi interessano di più di quelle di Sedorov cantante, che poi però riascoltiamo. Dica Gigi. No, io canto meglio sia di Sedor che di Berlusconi, ma non era di questo. E allora adesso deve cantare. No, se l'è tirata. Fallo tu. A mezzanotte sai che io ti cercherò e ovunque tu sarai sei mia. Ma adesso ecco, grande Pardo, qualità, grande timbrica. Voto Pardo, voto. No, no, bene. Grande interpretazione. E stringerò il cuscino fra le braccia mentre cercherò il tuo viso. Mm-hmm. E splendido nell'ombra apparirà. Ma devo fare mica, devo provare a fare mica. Tu hai una luce bellissima nella tua voce. Tu hai fatto, sposato tutto il tuo cuore è venuto fuori. Mi hai fatto sentire i farfalle. No, no, stavo bravo, veramente. Bravi, bravi tutti e due. Bravi. Io bravi voglio, tutti. Io voglio passare alla posta del cuore comunque. Rubrica posta del cuore. Manca pochissimo. Gigi, dica. È che io penso che Sedor sia veramente l'uomo giusto al momento giusto, perché io penso così, insomma, ne parlo per come tutti noi possiamo dare una considerazione. È un uomo intelligente, è un uomo che ha vinto tutto, è un uomo che non ha grilli per la testa ed è uno che sa cos'è il mestiere, perché questo è stato un ragazzo che ha vinto tantissimo, ma nel tempo, e non gli è mai stato regalato niente. Per cui, per esempio, io penso che uno come Balotelli, che è determinante per il Milan, con uno come Sedorf non fa più il Mona, insomma. Deve rigare dritto, perché ha uno di fronte che sa più di lui, che ha vinto più di lui, e che se Balotelli è intelligente, come io penso sia intelligente ma capriccioso, se attinge al sapere di Clarence Sedorf diventa un grandissimo giocatore, e questo vale per tutta la squadra. Oppure si scontra dopo un minuto e questo può essere l'altra faccia della medaglia. Dal timbro Gigi è un po' berlusconiano, cioè sembra un po' Berlusconiano. No, ma non dico che è berlusconiano come voto, dico che assomiglia come timbro di voce, come parlata, un po' all'ex presidente del Consiglio e attuale proprietario del Milan, no? Pardo, che dici? No, a parte il timbro, no, secondo me è giusto, cioè giusto. È la considerazione che faccio anch'io, ovviamente non conoscendo poi quello che sarà dal punto di vista tecnico, cioè questo secondo me è un discorso giustissimo che prescinde dal calcio, se vuoi, no? Che prescinde dalle qualità tecnico-tattiche dell'allenatore, che non conosciamo ancora. Dal punto di vista della personalità e del carisma, che sono elementi fondamentali di un manager, perché poi l'allenatore è un manager, queste considerazioni le stracondivido. Penso che, tutto sommato, aver anticipato questo tipo di arrivo di Sedorf di qualche mese potrebbe essere un problema, però. Potrebbe essere un problema perché forse, diciamo, nel piano di partenza, che era Allegri via a fine stagione, ci sarebbe stato tutto il tempo per dare a Sedorf una squadra subito più competitiva. Invece sì, però, il rischio di bruciarlo un po' c'è. Però è meglio che cominci a lavorare da subito, cioè questo dà un senso di ricostruzione. Il traghetto non è mai una ricostruzione, è solo un tiro alla campare fino a fine dell'anno. Certo, anche se... certo, però diciamo che in questo momento la squadra ha dei limiti, è vero che c'è ancora il mercato, ha dei limiti potenziali. Io sono convinto che Berlusconi, nei limiti del budget, che non è più quello dei tempi d'oro, però per Sedorf spenderà, ne sono convinto, perché secondo me questa cosa c'è sempre stata da parte del presidente del Milan, no? Cioè il suo livello di sintonia con l'allenatore incide sugli investimenti. Sì, comunque questo è vero, io credo lo farà. Si sta valutando con Sedorf ad esempio la pista SN, che mi pare una buona idea. Stando sul mercato, andiamo con la borsa invece, con i mercati finanziari, stando invece sul calciomercato, io confermo quanto detto prima. Nel complesso mi piacciono la Roma, la Fiorentina, che prende Matri e Anderson, la Roma che Nainggolan adesso valuta, crescita Antonelli, il Napoli che che ha un passo da Jorginho. Insomma, mi piace vedere quelle che stanno dietro la Juventus che si muovono in questo modo. Campionato chiuso, come diceva Curro, e sono d'accordo, l'abbiamo detto mille volte, però quelle dietro che si muovono così penso possano indurre anche il Milan a fare qualche passo. Borsa. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Tutti convocati. Roberto da Milano, dica. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ecco, allora, io voglio parlare di Galliani e Berlusconi. Secondo me sono persone calcisticamente normalissime. Secondo me chiunque andava al loro posto era quasi umano. Galliani non capisce assolutamente niente, secondo me, di pallone. Sì. Idem Berlusconi, perché se uno capisce il pallone non c'è bisogno di essere distante, le scuse che... Ma... però mi perdoni Roberto, mi sembra il discorso di con la squadra, dello stile, con la squadra forte vincono tutti, ma non è così. Su questo non sono d'accordo, secondo me loro sono bravi. Allora io volevo fare al volo sentire di nuovo, no, Sedor cantante non me lo fa sentire, Gio Squillo, ciao. Ciao. Volevo farti dare un voto, grazie. Volevo farti dare un voto a Sedorf cantante, ma non lo troviamo più. Voto al look di Sedorf invece? Guarda, a lui prende sempre 10 lode, perché veramente è un uomo, delle belle imprese, dei bei modi, un uomo. Vabbè, ma tu sei tifosa, sei di parte. Sono tifosa, però posso dire che sono anche obiettiva. Sì. E posso dire che sicuramente, lo vedo anche i risultati. È un uomo veramente delle imprese fuori, dentro il campo, quindi ha fatto delle cose che hanno, non è uno spostiano successo, perché vincere 3 Champions League in maglie diverse, credo non si può negarlo. Anche nelle sue imprese, anche nel suo modo di fare. Poi è veramente... Poi l'orgoglio, insomma, di avere il nella storia del calcio italiano mi sembra anche una cosa molto, molto significativa, porterà dell'innovazione. Lui è super cool perché è un uomo che sa essere educato molto per bene, però allo stesso tempo riuscire a dire le cose, credo che anche porti nello spogliatoio quella determinazione, quell'atteggiamento virile maschio del proprio tipico del calcio, che è quello di, insomma, di saper dire le cose in faccia in modo duro, in modo forte. L'ha sempre fatto. Perché Gio, perché a San Siro veniva fischiato? C'era un eccesso di critica nei suoi confronti? No, non sempre, ovviamente. A volte questo atteggiamento di, diciamo, anche a volte un po' super party, molto, molto diplomatico, ma molto di gentiluomo, a volte, ovvio, magari le tifoserie più accese magari possono fraintenderlo e non capirlo, probabilmente. In lui c'era sempre questa componente molto professionale, e questo forse magari in alcuni momenti con i frangenti può disturbare, però poi alla lunga rimane nei cuori, perché comunque è veramente un uomo che in campo si è comportato molto bene dal punto di vista sportivo, è sempre stato leale, corretto, cioè non si è mai parlato di Sedorf in modo violento come da adesso. No, anche perché guardalo du spalle così, se parli di lui in modo violento potrebbe veramente te le suona. Lasciarti alle spalle il ragazzaccio che era dentro di lui ed evolvere la sua intelligenza, la sua bravura e il suo talento, perché sì, come diceva Robert De Niro, spreca il talento e sei l'uomo più sbagliato del mondo, no? Cioè, lo spreco del talento veramente è una delle cose più brutte che si possa vedere, sì, perché un uomo così, così dotato non si può lasciare sprecare. A parte che mi fa molto ridere il fatto che il primo diktat di Sedorf sia più attenzione agli orari e al look, indirizzato forse a Balotelli. Però voglio chiederti ancora questo prima di salutarti. Allegri invece, sì, com'era? Berlusconi diceva un attore, un modello. Nel cambio così... Ma guarda, non possiamo prescindere oggi. Allora, purtroppo si usa l'estetica come una qualche cosa al di fuori dell'etica, o comunque al di fuori di quello che è l'anima. Cioè, l'estetica oggi è l'anima. Cioè, io mi vesto come rappresento. Allegri era un gentleman, comunque era un uomo educato, gentile. Si vedeva come rappresentava, lo rappresentava negli abiti. Non stacchiamo, non facciamo delle macchiette attraverso la moda e usiamo la moda per scaricare la superficialità. Non è così. Oggi è vero che si usa il look, ma anche proprio usiamo ancora di più il look per sfogarci da questo, da questi aspetti, e poi diamo, mettiamoci le palle invece in campo, perché si può fare ambedue, l'hanno mostrato bene molti, no? Sì. Cioè non c'è bisogno di scegliere o l'uno o l'altro, penso che si possa fare bene sia l'uno che l'altro, quindi sicuramente probabilmente riportare all'ordine ragazzi che voglio dire che possono fare benissimo a meno di fare la vita mondana se sono dei calciatori professionisti strapagati nel, al mondo, perché ci vuole un po' di impegno, un po' di rispetto anche per i tifosi e anche per lo spettacolo e il lavoro che si fa. Se tutti fossero un po' più professionisti e anche corretti con se stessi, non soltanto con gli altri, forse avrebbero più soddisfazioni e forse dovrebbero farsi meno creste. Comunque io adoro sempre le creste, perché vabbè, ma anche io, ma poi a me gli irregolari piacciono, anche a Pardo gli irregolari a me piacciono da morire. Gio, ti ringrazio, so che sei una sfilata, ti lascio lavorare, doveri settimana scorsa quando eravamo la sfilata del bassotto, esatto, abbracci, baci, ciao ciao ciao ciao. Dov'era Gio Squira settimana scorsa quando eravamo a Pitti? Non so, potevamo chiamarlo, ci ho pensato. Qua siamo bolliti tutte e due. Twitter, su Twitter, a proposito, seguiteci su Twitter, non mi ricordo a che numero siamo arrivati, probabilmente 1.398 miliardi di, sì, di ascoltatori. Dominiamo. Giovanni da Prato ci segue su Twitter? Giovanni? No, neanche al telefono ci segue. Antonio da Siena? Ciao a tutti, buon pomeriggio. Dimmi. Volevo tornare un attimo sull'Inter e su Mazzarri, volevo sottoporvi una domanda, cosa ne pensate di questa piega che sta prendendo un po' la stagione dell'Inter. Io penso che Mazzarri è arrivato senz'altro come un tecnico sicuramente preparato, quadrato come si dice, però in questo momento probabilmente sta mostrando un po' la corda, forse in questo momento doveva avere quello scatto che non riesce ad avere. In un ambiente come l'Inter può essere fatale, chiedere a Stramaccione lo scorso anno. Volevo sapere cosa ne pensate su questo argomento. Domanda assolutamente pertinente, vostro onore. No, sto leggendo per caso righe di Repubblica. Dopo i colpi azzeccati di Handanovic e Palacio in estate 2012, gli altri affari, tra virgolette, sono stati Alvaro Pereira, 12 milioni, e la vagonata di giocatori ingaggiati. Da un anno in qua nessuno fondamentale: Carrizo, Schelotto, Kuzmanovic, Kovacic, Rocchi, Andreolli, Campagnaro, Taider, Belfodil, Icardi, Wallace, Botta e Laxalt. Gli errori sono stati fatti. No, io credo che onestamente oggi, sai, ho visto dei pezzi sui 7 rigori negati. Rigori, dice Cesari, sì. Cioè, io credo onestamente che questo elemento cominci ad essere pesante. Sì. Lo dico pur sottolineando i limiti dell'Inter, sottolineando una certa pochezza tecnica e anche qualche limite di Mazzarri, che però posso dirti, era partito molto forte. Hai ragione, ma a patto che non diventi l'unica ragione o che non diventi un alibi, perché sennò però, è un elemento di debolezza. No, però ti dico che in un mondo nel quale sai quanto poco mi interessa parlare di arbitri, ma hai ragione, consideri questa cosa diseducativa prima di tutto per le squadre, proprio per il problema degli alibi. Però quando gli episodi cominciano a essere tanti questo è evidente, sono tanti adesso, anche noi critici secondo me dobbiamo cominciare un attimo, dobbiamo fare una tara, ecco, dobbiamo fare una tara, perché poi è ovvio che non è che te li dobbiamo dare tutti e sette, proprio, e non è che tutte le sette le partite le giravi in quel modo. Però perdonami una cosa, ma tu sei d'accordo su chi dice, cioè, guarda al passato, ai pessimi rapporti di Braschi, designatore uscente, con l'Inter, oppure Anicchi che con l'Inter non c'è, non mi portare su questo piano, non ci capisco nulla, non ci credo. Poi è ovvio che questo è un paese dove si diceva no, ma ti pare che i politici rubano, e c'è stata Tangentopoli, ti pare che poi Moggi... ti pare che gli arbi, e c'è stata Calciopoli con dei contorni che non ho capito al 100% su tutto, cioè secondo me non c'è stata una diagnosi definitiva, però comunque abbiamo capito che quantomeno c'erano dei tentativi per qualche sentenza, con tanto di sanzioni e di retrocessione e tutto quello che è successo. Quindi per carità, non diciamo che sono in una fase della vita, come direbbe Tony Servillo, ecco, sono in una fase a quasi 40 anni, ho imparato che mai fidarsi, però onestamente non ho gli elementi per poter dire che che è l'inimicizia del designatore, insomma, no, io non, una non, cosa io, presunta anche, inimicizia del designatore, assolutamente. Ma anche fosse reale, cioè io sinceramente a un fuorigioco fischiato perché pilotato dal portiere del Chievo, fuorigioco che non c'era, evidente, però insomma pilotato da potere oscuro, io sinceramente non credo. Poi voi fate come volete, io non credo, Pardo mi pare neppure, poi se si vuol fare... no, però secondo me noi, vero, facciamo, però non, noi che facciamo comunicazione nel porre i problemi dell'Inter, che ci sono le difficoltà tecniche di questo momento della stagione che sono evidentissime, una tara su questo secondo me dobbiamo cominciare a farla, perché se non la facciamo poi secondo me rischiamo veramente di diventare noi schiavi del risultato. Allora, siccome l'Inter l'altro giorno la partita la poteva vincere, il gol del 2-1 l'aveva fatto, forse l'avrebbe portata a casa, ed altre volte alcune partite sono girate con degli episodi sfavorevoli, beh, questo comincia a essere un elemento. Non deve diventare un alibi all'interno, cioè non deve diventare un alibi per Mazzarri, non deve diventare un alibi per i giocatori che devono dare di più, per la società che deve muovere sul mercato, però noi che valutiamo dall'esterno, ai quali che penso possiamo dirlo serenamente non ce ne può fregare di meno, però nell'analizzare onestamente dal punto di vista intellettuale questa situazione, secondo me questa cosa dobbiamo cominciare a considerarla. Pier, ci sentiamo domani? Sì, ma quella cosa non riusciamo a farla, Quale? Quel collegamento con Amsterdam. Ah, aspetta, forse sì. Allora sta con noi ancora 5 minuti, dai, sta qua, sì, sta qua. Sì. Convocati. Forse siamo riusciti a ripristinare il collegamento in mondovisione con Giovanni da Prato. Giovanni? No, niente da fare. Adesso mi impunto, però io con Giovanni ci voglio parlare. Quindi fate in modo di ripristinare il collegamento con Prato, 800 24 00 24 via satellite. Fabio Treviso, buongiorno. Buongiorno a tutti, sono Fabio da Treviso. Sì. Grazie dello spazio che mi date. Ma, senta, lei è interista? Un pochino. Direi. Cosa ne pensa di questo messaggio di Alex? Sì. Ma la faccia di bronzo degli interisti per 19 partite senza rigori. 2-3 anni fa l'Inter è arrivata a 70 partite consecutive senza rigori contro. Come risponde? Ma rispondo in modo molto semplice. Probabilmente l'amico che ha mandato il messaggio, il tifoso Alex della Juventus. Sì. E non serve fare commenti, perché insomma non credo che ci sono giudizi, cioè, insomma, quello che è successo non va neanche commentato, per mio. Beh, però Alex, però no, ma certo, però a parte il fatto che poi i commenti non li fate nessuno, li fate sempre fare a me, però il dato delle 70 partite senza rigori contro è un dato di cronaca, io su questo non è, io guardo il momento dell'Inter di oggi, no? E da tifoso neanche tanto leggero, sono deluso dal gioco, cioè non vedo mai una partita con manovra fluida, mai, sono sempre grandi difficoltà a costruire. E detto questo, una piccola esperienza anche di allenatore l'ho fatta, anche se a livelli modesti, e dico che 3-4, forse 5 punti in più a parità di gioco espresso ti aiutano a lavorare molto molto meglio. Perché sì, la pressione no, questo è verissimo, ma questo è verissimo, Fabio, è evidente. Non so, col Chievo vinci la partita 2-1 giocando male. Sì, però attenzione. No, ma questo è Vangelo. Questo secondo me è Vangelo, però l'unica cosa su cui fare la tara, vinci la partita 2-1, vediamo. È chiaro, non è stato dato un gol regolare, però vediamo, perché quest'Inter nel complesso non è stata brillante nemmeno contro Chievo. Allora, parte ancora con noi. C'è anche collegamento annunciato Marco Francioso da Amsterdam. Marco? Sì. Marco, eccomi a voi. Complimenti. Pronto? Grande scoop. Cosa? Ha giocato, no, hai giocato d'anticipo, sì, da Amsterdam, hai accolto Sedo. vogliamo dire. No, ma il problema non è stato Sedo, perché Sedo lo conosco da tante, però è stato scoprire da dove sarebbe uscito, perché qua è un detalo. L'abrito di Knosso è Google Maps lo sa, saprà l'uscita, qua è veramente un caos, però ce l'abbiamo fatta. Comunque sarà un grande pomeriggio, perché poi credo tu abbia un altro appuntamento, quindi insomma sarà un grande pomeriggio su Sport Media, sia sul sito che in TV, perché insomma ha già qualcosa detto, no? Ha detto la sua emozione, ha detto la sua stanchezza, ha detto la sua felicità, e gli ho ricordato che prima Sacchi, poi Zaccheroni, adesso lui, nati tutti il primo aprile. Infatti ho detto, speriamo porti bene a questo punto. Gli appassionati di numerologia impazziranno per questa cosa. Senti, lo conosci da tanto, ovviamente, non sei il solo, ma insomma, però sei l'ultimo ad averlo visto, anche subito prima e subito dopo l'intervista. Che sensazione hai di una chiamata che lui si aspettava, di un rapporto con col Milan e con Berlusconi troppo profondo? Sì, assolutamente una chiamata che lui si aspettava, ma io penso che sia un... diciamo un rapporto che dura nel tempo, dura da tempo, e è stato solo anticipato, perché era lui il successore designato, nominato veramente da tanto tempo, e la proprietà lui voleva, e lui è arrivato con 5 mesi in anticipo, ma è arrivato comunque, è arrivato a giugno, non era questo il problema. Però come vedi, la velocità con cui è arrivato dimostra che non c'è stato neanche tempo per pensare, nel senso che come si è saputo dell'esonero di Allegri, ovviamente credo che lui lo sapesse prima, a questo punto me l'avranno chiamato, gli ha detto ascolta, prepararmi i bagagli. Era talmente stanco, ti do un piccolo particolare, che è arrivato con la moglie, poi c'era una persona a cui lui ha demandato il ritiro dei bagagli, lui è andato direttamente a casa a dormire, e adesso fra un paio d'ore, che ore sono le 3, diciamo le 5, lui prende il volo per Milano, il volo Cappelle 1621 delle 5, e alle 18:40 sarà a Milano, quindi da lì effettivamente sarà la sua prima giornata milanese da allenatore. Grazie Marco, grandissimo. Grandissimo. Buona giornata a voi. Grazie Marco, grazie. Francioso. Ciao. Io credo fra un'oretta e mezza avremo altro, avremo ancora, andremo subito sul sito ovviamente nelle varie edizioni, perché insomma so di questo appuntamento, ma insomma già le prime immagini, sai, hanno anche un valore in qualche modo simbolico, il fatto che certo. Ha scelto di andare comunque ad Amsterdam per farsi 2 ore di pennica a casa, delle varie soluzioni di scalo evidentemente, forse anche per fare il cambio valigia, insomma evidentemente la voglia di presentarsi pronto, meno stanco possibile alla sua prima vera serata, anche più bello, no? Riposato, si diceva prima anche l'immagine della sua parte, si cambia, si fa la doccia. Parallelo con primo aprile di Sacchi, magari sì. Zaccheroni ha esperienze un po' più contraddittorie, a cui non credo sia da rifaccia. Ha vinto un campionato Zaccheroni, in un momento sicuro, in cui quel Milan forse, secondo me non era la squadra più forte d'Italia, che in quel momento era la Lazio, sicuramente l'ha vinto, ovviamente anche con qualche circostanza fortunata, però quello fu un capolavoro. Poi anche lì, guarda, Zaccheroni e Allegri sono due storie abbastanza simili, perché tutti e due hanno vinto lo scudetto, però tutti e due forse non sono mai stati completamente amati. In fondo, esatto. Sono d'accordo, Piano. Federico Bergamo, buongiorno. Buongiorno, grazie della convocazione, è sempre una gran bella emozione. Volevo dire due cose: sono un abbonato del Milan da 25 anni, quindi diciamo San Siro è da tempi non sospetti, sì. Esatto, direi. Beh, da quando è arrivato Berlusconi, sì. Poco prima, insomma. Sono molto contento per Seedorf perché indubbiamente un grande calciatore, un grande campione non può che far bene. Quando una persona ha qualità, se gli dai il tempo, la qualità alla fine emerge e prevale su tutto. L'unica cosa che mi ha lasciato un po' perplesso stamattina è stato leggere la Gazzetta, dove sembrerebbe che ha consigliato il rinnovo del contratto di Emanuelson. Forse non ha visto le ultime partite, perché credetemi, di Emanuelson l'esse lunga delle corsie intere, con anche i punti fragola, tutto. Facciamo pubblicità così. No, però è bella, questa è bella. Ti dirò un'altra bestialità, Emanuelson da in questo Milan è evidente, in un altro non fa neanche la partitella del giovedì, ma in questo Milan da esterno di sinistra, difensivo naturalmente, quindi basso, a me non dispiace neanche poi tanto. Ma tu Carlo, alla fine sei... Perché oggi ho fatto una vox popoli in giro per Milano. Seedorf sì o Seedorf no? Come te la senti? Dai, sì, tutta la vita. Ma sì, tutta la vita. Mi sembra la scelta più intelligente, più trendy, anche calcisticamente. Cioè uno che, ma poi per predestinato, conosce l'ambiente, conosce tutti. È uno che ha un carisma che spacca, ed è quello di cui ha bisogno il Milan. Anch'io. Tu no? Sì, sì, io sono. A me stanno simpatici i talentuosi, i carismatici, perché mi sembra molto spesso i carismatici vengono avversati dagli altri che rosicano. Guarda, ma è per questo che sei qui, no? Se no, mica eri qui tutti i giorni. No, no, però a parte tutto, in generale, secondo me il talento dà fastidio spesso nella vita, insomma, ci sono tantissimi esempi, e viene visto male da altre persone. Quindi, secondo me, molte delle voci che ci sono state su Seedorf, su un carattere difficile, in qualche modo, non lo so, dall'esterno penso che siano legate. Certo che è difficile, come tutti quelli che hanno personalità, no? Ecco, nel talento della personalità a me piacciono, insomma, non ho paura di sentirmi sedotto da qualcuno che ci sa fare, ecco. Cerco di conservare, ovviamente, ma mi piace il fatto che, cioè, mi è sempre piaciuto il fatto che lui, insomma, è certamente un gran furbo, ma un paraculo no. Ed è per questo che non è mai stato, così come Paolo Maldini, in grandissimi rapporti con la tifoseria, quella del Milan in particolare, con la tifoseria organizzata in generale. Quindi questo è un altro aspetto che mi piace molto di lui. L'unico dubbio, per chiudere, ovviamente, è che fare l'allenatore è un mestiere, e questo mestiere va imparato, e qui ovviamente, insomma, chi dice che non ha esperienza ha ragione, però vedremo. Neanche Guardiola aveva grande esperienza, neanche Antonio Conte ha fatto un'ottima gavetta sicuramente, già si capiva che sarebbe diventato bravo, però quando la Juve l'ha preso non era un allenatore, fa, non era un allenatore di questo livello. Pier, grazie, ci sentiamo domani. Ciao. Tutti convocati. Mentre Burdisso lascia la Roma in diretta Sky dicendo: cambio aria perché qui non gioco mai e io voglio cercare i mondiali da un'altra parte, e mentre c'è un ascoltatore che è bravo nelle statistiche, al contrario del sottoscritto che fa riepilogo dei rigori contro dell'Inter 2006-2007, 6 contro 3 realizzati all'allenatore Mancini, 2007-2008 3 rigori contro 1 realizzato all'allenatore Mancini, 2008-2009 nessun rigore contro, nel 2009-2010 sempre con Mourinho in panchina 7 rigori contro, 6 realizzati. Bene, questo per la cronaca. Allora, io vorrei ingaggiare, lo dichiaro pubblicamente, la bimba che sempre in diretta TV ha fatto un mazzo così ad Alonso, l'ha torchiato per bene. ¿Vas a ganar por fin en 2014? Bueno, ya empiezan las preguntas difíciles. Esperemos, pero no, en el deporte no se pueden hacer promesas. Nadie puede decir el año que viene voy a ganar o el año que viene no voy a ganar. Todo hay que desarrollarlo y hay que ver cómo van las cosas, pero que tengo muchas ganas de conseguirlo, eso seguro. Allora, ¿lo vinci sto mondiale o no nel 2006? Perché le chiacchiere stanno a zero. Adesso che ha cambiato tutto, che ha cambiato anche numero, hai preso il 14, questo mondiale lo vincerò? Aspetta, vediamo, vedremo, anche qui vivendo dal 16 di marzo, primo gran premio, quello in Australia. Non aspettiamo il 16 di marzo, in Australia ci andiamo subito. No, today really good, they say for today, but you know, it's nice. It's nice, and at the same time, I think it's really difficult to play with this condition. But you know, I love the sun, so I love to play with the weather like this. Stefano Melocchero da Sky, ciao. Eccoci, buon pomeriggio, 42 gradi, insomma, condizioni toste veramente. Bisogna saper giocare a tennis e bisogna saper resistere. Sì, Stefano, quello che abbiamo appena sentito è l'audio di un video che sta spopolando su YouTube, cioè Fabio Fognini che dopo aver vinto fa il tuffo in una fontana e dice: ma che caldo che fa qua. Beh, lui è un fenomeno perché comunque oggi la partita giocava contro uno, Nieminen. Un po' vecchiotto Nieminen, ma comunque sempre uno che sa vincere le sue partite e che può dare fastidio su quei campi. Da come era partito, tra l'altro, Fognini era sotto 3-0, si lamentava, solite parlacce varie, condite, bestemmie sparute e così, invece poi alla fine è riuscito a portarla a casa in pieno Fognini style. Tra l'altro Fognini che con questa vittoria qui diventa numero 15 virtuale del mondo, e se vince un'altra partita va ancora più su. Era un sacco di tempo che non avevamo un italiano così in alto in classifica, perciò prendiamo il meglio, lasciamo stare le parolacce, prendiamoci trash Fognini. Trash talk, dai. Trash talk, esatto. Specialista del trash talk, a me sempre sul fronte degli irregolari che mi piacciono, mi piace anche il trash talk di Fognini. Meno avvezza al trash talk è Flavia Pennetta, che però è invece molto avvezza alle vittorie, ha vinto anche oggi. Ha vinto anche oggi, ha battuto una non facile come la portoricana Puig, e tra l'altro stando al tennis femminile rappresenta un'assoluta eccellenza il fatto che Flavia Pennetta non abbia concesso una palla break per tutta la partita. Sai che loro, il servizio per loro è un optional, no? Cioè, nel tennis femminile, a parte Serena Williams, si breccano e ribreccano come se fossero di solito alle finali dei campionati nazionali WISP. Invece devo dire che Flavia è tornata solidissima. Stiamo parlando di una che poco meno di un anno fa paventava il ritiro, perché ti ricordi, veniva dall'operazione, certo, al polso, si era fatta male, non diceva no, ma se continuo così, invece è tornata. Ricordo anche quel Wimbledon, ne avevamo parlato insieme, di grande sofferenza anche cioè visiva, no? Si vedeva che anche dalla televisione soffriva come una dannata. E tra l'altro adesso ha un'altra avversaria possibile, la Bartel, assolutamente nelle sue corde, per poi avere eventualmente in ottavi la Kerber, lì cominciamo a parlare di roba tosta, però insomma buon tabellone per lei e soprattutto brava lei, che peraltro ha twittato anche una sua foto, diciamo così, lei non perde mai occasione per twittare qualcosa di un tantino così stimolante, ecco, sdraiata sul divano, capito, mi sto riposando, così, gli appassionati del genere possono andare con serenità. Senti, ma ieri invece Seppi, altro avversario di nome comunque, non è, ovviamente Leighton Hewitt non è quello che era prima, però altro avversario di nome Però sai, veniva dalla vittoria contro Federer, no? La settimana scorsa, sai che Federer è un, certo, po' alti e bassi adesso, però, certo, sempre ex numero uno del mondo, sempre uno che gioca in casa, sempre uno che ha avuto un match point, perché comunque Seppi gli ha annullato un match point, sempre uno che era andato sotto 2-7-0 e poi ne ha vinti altri due lui, Hewitt, di set, no? Perciò sai, tutto il pubblico di casa che fa il tifo per te è stato bravo, Seppi, anche lui bello tosto, solido, alto atesino, come sa essere quando ha voglia. Un'ultima cosa, Stefano, nel complesso io ho visto ovviamente i trailer dei televisivi di questi Australian Open, si vede in lontananza una sfida Djokovic-Nadal, almeno stando ai trailer, e si vede una Serena Williams quasi senza avversarie, la pensi così anche tu? Ma non riesco a uscire, sarà banale, no? Però tutto lascia pensare questo, cioè, poi sai, il tennis non è uno sport proprio sempre logico, però la distanza 3 su 5 favorisce sempre i più forti. I più forti sono i nomi che tu hai testé citato, non c'è niente da fare. Poi sai, io da anziano spero in un miracolo Federer, spero in un miracolo Janovic nel maschile, perché ma dai. Da anziano. Da cultore del tennis di una volta, ecco. Però alla fine mi sa che non si esce da lì, eh. Ha giocato Rafter, tra l'altro, il doppio con Hewitt, a proposito di pensa anziani, un po'. Sì. Ogni tanto spuntano anche questi, finora di quelli forti non ha perso nessuno, no. Siamo arrivati al terzo giorno, voglio dire, è un piccolo indicatore. Djokovic, Murray invece no. Murray lo vedo, però sta lì. Io spero di assistere al quarto Murray-Federer. Loro sono addirittura di collisione nel lato di tabellone di Nadal, dovrebbero giocare i quarti uno contro l'altro. Ecco, quella sarà una partita. Se arriviamo a quella partita, capiremo molte cose. Nel senso, se Federer ci arriverà, e dovrebbe, perché non vedo grossa roba dalla sua parte, ma vale anche per Murray, che come sappiamo ha ricominciato da poco, dopo che era stato fuori 4 mesi. Quella è una partita che, se assisteremo a quella partita, capiremo molto. Sì. Grazie Stefano, un abbraccione. Tanti baci. Ciao. Stefano Melocchero da Sky. Dunque, Fabio Fognini sembra il Murray dei poveri, ma magari vincesse quanto lui scrive Dante da Busto. Però mi sembra che, insomma, numero 15 del mondo, era tanto che non ne vedevamo uno dei nostri a quelle altezze. Andrea Modena, buongiorno. Buongiorno. Dica. Chiedevo una cosa, faccio una domanda, voi mi direte la risposta. Sì. Secondo me il Milan ha fatto un grosso sbaglio a cambiare Seedorf in corsa, prima. E per cambiare me Allegri in corsa, dice. Cambiare Allegri in corsa, scusate. E per me, a questo punto, la mia lista io rischiamo la Serie B. Secondo, se Berlusconi, per me è ora che venda il Milan. Grazie. Ci vuole uno che lo compra, però. Sulle voci di disimpegno di Berlusconi, insomma, andiamo avanti a illazioni, perché o ipotesi, perché di queste si tratta, e immediate smentite da ormai molti anni sul fatto che il Milan abbia fatto male a cambiare Allegri in corsa. Beh, su questo non sono d'accordo. Secondo me il Milan ha fatto male a non sostituire Allegri all'inizio della stagione, ma anche questa non è una cosa inedita, visto che l'abbiamo detto un sacco di volte. La genesi di questa stagione è stata sbagliata, probabilmente ha sbagliato Allegri ad intestardirsi nel voler stare a tutti i costi, dicevo ieri, legato con lo scotch a quella panchina. Ha sbagliato forse Berlusconi a lasciarsi convincere da Galliani, altro errore, a confermare un allenatore di fatto già esautorato. E siccome io resto convinto del fatto che queste cose, questa atmosfera, la squadra la percepisca, e ne parlavamo anche qui prima con Enrico Conro, alla fine nessuno si ammazza, sportivamente parlando, per un allenatore che non è in grado di valutarlo, perché l'anno prossimo non ci sarà più, per una situazione di transizione. Ovviamente anche qui ci sono le eccezioni, fin troppo facile citare il Bayern Monaco, però si tratta di eccezioni che in Italia raramente accadono, anzi mai accadono. Ebbene, l'errore a monte è stato quello, cioè quello di levare potere, levare appeal, levare presa ad Allegri sulla squadra, esautorandolo già da inizio anno. Poi ora, figurate, l'aveva già detto a fine stagione, ha lasciato molto prima. Raffaele, Napoli, buongiorno. Buongiorno, la ringrazio per essere convocato. Tifoso di Napoli, lei? Io abito in provincia di Napoli, sono napoletano, abito a Nola. Sì, ma è tifoso del Napoli? No, sono tifoso della Roma. Però volevo sapere due cose. Io da tifoso, diciamo, neutrale, sì, ma io ho sentito prima, ma l'Inter come mai, secondo lei, è mai possibile che non abbia ricevuto mai un calcio di gol in 19 partite? Parlo così. E poi volevo sapere, secondo lei, per il calcio mercato attuale della Roma, una notizia che mi ha fatto molto piacere, l'andata via di Boitisso, che sì, considera un ottimo sostituto di Castagne, insomma. E cosa deve fare la Roma per raggiungere un secondo o terzo posto del calcio mercato? Ma secondo me la Roma sta già facendo, Raffaele, ma grazie a lei, la Roma sta già facendo, perché secondo me Nainggolan è stato un grande ingaggio, no? Quindi lo dicevo prima, secondo me Roma, Fiorentina e Napoli stanno puntando forte, e questo nel complesso mi fa piacere, perché la Juventus è irraggiungibile, però dà l'idea di squadre in salute e di squadre che comunque vogliono crescere, e stanno comprando, e comprando molto bene. Quindi credo che la Roma abbia avuto una grande idea nel prendere Nainggolan, che allunga cioè Nainggolan al posto di Bradley, che peraltro è stato venduto benissimo a Toronto, se non ricordo male, 10 milioni di dollari, che è tanta roba per un giocatore bravo ma non irresistibile come l'americano. Beh, secondo me la Roma con Sabatini, che merita un gran voto come sempre, sta facendo tutto il possibile. Burdisso, sì, sostituto di Castagna, però l'ha detto lui, fino adesso nessuna traccia di Burdisso in questa stagione. Castagna sta facendo bene, dunque riserva fissa, e ha detto: voglio andare da un'altra parte a cercarmi il mondiale. Non credo che questo possa cambiare più di tanto le ambizioni e il valore di una Roma che sta crescendo. Sentiamo domani Franco Piantanini, autore di questo programma, capitano Fabio Cantadore in regia. Domani dopo il GR delle 2 ci sentiamo. Tutti convocati. Scheggiatura o crepa al parabrezza? Carglass ripara, Carglass sostituisce. Vi ha presentato Tutti convocati.